Pochi Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dentro, posizione regolare, tiro e gol di Galia. Juventus in vantaggio. Galia al sedicesimo del primo tempo porta in vantaggio la Juventus. Fischio di Delia e l'ovazione dei tifosi della Juve, vedete numerosissimi a San Siro. La Juventus conquista la Coppa Italia e tutti i giocatori bianconeri vanno ad abbracciare Zoff. Tutto sospeso in attesa del tiro di Shevchenko. Ci si gioca tutto qua. Shevchenko contro Buffon. Merkel controlla, può partire. Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Campione d'Europa! Campione d'Europa! Fabrocchi e para Buffon! Altro straordinario intervento nella partita di Buffon, lega il gol a Brocchi, fischia Collina, va Ferrara e c'è il gol, la Juventus vince la sedicesima Supercoppa Italiana ai calci di rigore, decisiva la parata di Buffon su Brocchi al termine del primo tempo supplementare. Quadrado, l'undicesima volta la Coppa Italia. 1990-2003, anno di finale Champions League e Supercoppa Italiana, 2016, cioè l'anno scorso, e questa sera di nuovo di fronte, questa sera tra poche ore, di nuovo di fronte Milano e Juventus a Doha. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Va molto bene, perché abbiamo in linea un grandissimo esponente del lifestyle e della moda e dell'arte italiana, Renzo Rosso. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, le chiedo subito questo, lei è favorevole al calcio da esportazione? Lei è favorevole a giocare le nostre partite in giro per il mondo? Cioè, io devo vederla dal punto di vista di un uomo globale, quindi rappresento delle aziende, hanno solo dei brand name, sono famosi in tutto il mondo, e quindi il fatto di esportare questo calcio, che poi ha dei players che vengono dalle più grandi e importanti paesi del mondo, non è altro che un aiuto a divulgare, a far bene, a trasmettere, a avere fans e poi quindi creare più business. Dimmi, ci racconta Pardo, com'è nata questa partnership col Milan, che mi sembra insomma essenzialmente una storia d'amore, però insomma anche una storia fra brand che si piacciono, che in qualche modo si assomigliano, che hanno piacere nel fare un pezzo di strada insieme. Allora, all'inizio ovviamente sì, una storia d'amore. Io nasco milanista sul diverbio che c'era fra Rivera e Massola, ovviamente ho scelto Rivera perché all'epoca era il più simpatico, e poi ho sempre seguito il Milan in tutta la sua carriera, quindi avendolo un parcheggio a San Siro, il parcheggio sotto, l'ho seguito in tutte le trasferte più importanti, ma non solo le finali, quindi parlo anche di ottavi, sedicesimi, e quindi ho vissuto con il Milan gioie e anche qualche volta anche qualche dolore, tipo Istanbul quando vincevamo 3-0 il primo tempo. Vabbè, comunque la Barbara mi ha fatto questa proposta, Barbara Berlusconi, per poter vestire il Milan. Io ho detto: guarda, non vorrei vestire il Milan, è una cosa che fanno già un sacco di altre brand, a meno che non c'è la possibilità di fare qualcosa di innovativo, di diverso, come il brand Diesel ha sempre dimostrato in tutti i suoi anni. Siamo sempre stati molto brave, abbiamo cambiato il modo di vestire, attitudini, abbiamo cambiato il modo di fare pubblicità, e allora io ho presentato un progetto su come si poteva cambiare questo mondo di calciatori che sono tutti vestiti uguali, tutti quanti molto formali. e il progetto è piaciuto e quindi stiamo partendo. Quindi l'idea è di cambiare questo formale in qualcosa di totalmente informale. Vogliamo rendere i giocatori dei status symbol, che lo sono già, hanno dei grandi numero di followers che li seguono nei social network, ma di portarli ad essere belli, fighi, cool, visibili, di ognuno che esprime la propria personalità, al posto di essere vestiti tutti uguali. Quindi dobbiamo proprio cambiare un modo di vestire questa area, quindi rendere questi fenomeni, perché poi i giocatori di calcio non sono diversi da un grande cantante, da un grande attore, fanno parte del mondo che oggi conta, nel mondo che ha un sacco di followers, trasformarli e dargli più una vita vera, una vita più realistica per quello che il mondo poi rappresenta. Anche perché insomma lo streetwear, adesso non voglio parlare con i giornalisti di moda, tra l'altro in queste ore si parla e si celebra giustamente la grande figura di Franca Sozzani, che è stata un personaggio assolutamente illuminante, che ha cambiato assolutamente la narrazione, no, credo, della moda in Italia e nel mondo. Però questo elemento dello streetwear, che credo sia un vostro marchio di fabbrica, in realtà è un elemento molto calcistico, un elemento molto pop, perché poi il calcio alla fine, anche se poi lo vedi al Maracanã, anche se poi lo vedi al Bernabéu nelle finali di Champions, nasce ogni giorno per strada. È un po' anche questa l'idea? Sai, è un po' ridicolo secondo me pensare che oggi i giocatori vestono con un vestito, sono ingessati con la giacca e cravatta. Certo. Per cui è molto ridicolo quando invece questi giovani vogliono vestire in maniera molto più casual, molto più sport. Quindi noi stiamo portando con le nostre nuove divise, stiamo portando in questa direzione, quindi via assolutamente la camicia, via la cravatta. Sì, ma non la tuta come Sarri, Renzo. Non la tuta come Sarri. No, per carità, noi mettiamo la giacca classica, però con le maniche di felpa, con la cerniera al posto dei bottoni, mettiamo il cappuccio attaccato alla giacca tipo Kanye West, non mettiamo un pantalone classico, ma mettiamo un jeans, questo jog jeans con i laccetti che scendono alla Justin Bieber, quindi portiamo un po' di interazione, di coolness. Intanto oggi bisogna portare a casa un trofeo, sbaglio? C'è una bella atmosfera, ovviamente da una parte c'è una grandissima squadra e dall'altra c'è una squadra altrettanto grande, però diciamo che ha tanta passione e tanto amore, ha creato un ambiente veramente unico. Devo dire che Montolivo ha fatto veramente un lavoro ottimo. Un'ultima cosa, come... Montella ha fatto un bellissimo lavoro. Un'ultima cosa, come la mettiamo con i cinesi? Per noi è molto buona questa storia, perché il fatto di avere anche un partner cinese, la Cina nel 2020 rappresenterà il 60% dell'esportazione del mondo della moda che conta, e quindi avere un partner cinese vuol dire per noi la possibilità di segnare nuovi progetti, nuovi business, di incrementare la nostra profondità in questo paese grandissimo. Grazie. C'è un giocatore nel Milan magari, ma anche eventualmente di un'altra squadra, che rappresenta perfettamente il vostro spirito, uno che le piace particolarmente? Ma se, nel Milan in questo momento ci sono veramente tanti giocatori. Intanto c'è un'area bellissima che la chiamiamo l'area dei giovani, data da Donnarumma e da Locatelli, che è proprio bella da vedere, 17-18 anni, che cosa possono dare così come freschezza di un mondo giovanile. E poi c'è Niang, che è francese, c'è Bacca, che è colombiano, c'è Luis Adriano, che è brasiliano. Avere anche dei riferimenti di paesi dove noi siamo importanti, certo, ci aiuta molto in questo progetto che sta diventando e che diventerà qualcosa che poi mi auguro tutte le altre squadre di calcio seguiranno. Grazie, buona partita, in bocca al lupo. Grazie, Renzo Rosso. Grazie, sempre un piacere. Allora, ci fermiamo per il traffico, Pardo, poi parliamo di questa partita e parliamo anche di esportazione del calcio italiano nel mondo, perché io non ho avuto modo di chiederti come la pensi tu. Io, insomma, ho riflettuto sulle parole di Galliani e a me l'idea non fa proprio schifo. Ci fermiamo. Tutti convocati. We'll be right back. convocati. Siete tutti convocati anche oggi, 800 24 00 24, numero verde per parlare non solo di ciò che stiamo per vedere alle 17:30, ma anche per parlare di ciò che abbiamo visto ieri sera e che soprattutto Pierluigi Pardo ha avuto il cuore di vedere dal vivo e di raccontare, perché è stata, dicono, bellissima, la partita più bella dell'anno che ha. Poi sentiremo l'affresco che Sarri, allenatore avversario, ha fatto di Bernardeschi, che ieri ha giocato una partita meravigliosa, Piero. Sì, sì, è stata una partita bellissima, anche perché imperfetta, no? Quasi sempre certo, il calcio ha bisogno dell'imperfezione per poter emozionare. È stata bellissima, è stata oggettivamente bellissima, piena di colpi di scena. Credo che il risultato alla fine lasci un po' tutte e due insoddisfatte, e penso che il Napoli abbia dimostrato di avere ancora dei limiti, perché non puoi andare, secondo me, due volte in vantaggio, come ha sottolineato, devo dire, con grande onestà lo stesso Sarri, non puoi andare due volte in vantaggio e farti recuperare in questo modo. E la Fiorentina ha dimostrato che anche nei momenti difficili, perché ieri era veramente in grandissima emergenza, anche dal punto di vista proprio degli uomini, con Ilicic che si era bloccato, con la difesa rabberciata, come si diceva una volta, però insomma soprattutto in casa riesce a tirare fuori delle grandi prestazioni, è ancora imbattuta in casa, quindi è un segnale secondo me di vivacità. E poi sì, allora è una serata che ci dice molto secondo me sull'esplosione dei giovani viola. Sì, è una serata, guarda, tutti, è stata una serata anche Chiesa, guarda, allora facciamo così, dopo ne parliamo, anche perché dalla giornata di ieri sono usciti un sacco di bei regali di Natale per Ventura, secondo me. Ma intanto voglio far arrabbiare il mio amico Maurizio Crosetti facendo risentire le parole di Galliani di ieri. Il calcio italiano, anche se non è più il primo al mondo, è comunque una delle eccellenze dell'Italia, bisogna farsi conoscere. Quindi io addirittura sono per giocare magari anche qualche partita di campionato all'estero, l'NBA lo fa, voglio dire, le finali eccetera. Noi questo calcio italiano dobbiamo farlo conoscere del mondo. Quando venderemo i prossimi diritti televisivi dovremo stare attenti a vendere magari più chiaro e meno criptato, mi spiace per chi lavora in criptato. Oggi il mio amico Maurizio Crosetti scrive su Repubblica un fondo titolato Il manifesto di un sistema a cattone. Mi fa capire, anzi leggendolo so, ma lo sapevo già da prima, che non è molto d'accordo. No, perché penso che 1 milione di euro nelle tasche della Juve e altrettanti soldi in quelle del Milan non cambino i destini finanziari delle due società, ma cambino un po' la fruizione, la percezione di questa partita che i tifosi credo avrebbero voluto vedere allo stadio. Non laggiù, non incastrati in un angolo di calendario che costringe i due recuperi di Milan contro Bologna e di Juve contro il Crotone addirittura a slittare all'8 di febbraio. Non credo che questa sia la promozione, non credo che i destini del nostro calcio possano migliorare, essere più luminosi se ci facciamo a poi conoscere de che, vorrei dire a Galliani. Il Milan e la Juventus hanno bisogno di giocare in Qatar per farsi conoscere. Il campionato italiano, che è un riferimento mondiale da un secolo, ha bisogno di andare a giocare all'estero per vendere cose a chi? Non è questo. Quindi Maurizio, non è questa la strada. Non è questa la strada, ma Galliani sottolinea come una strada che è stata seguita ad esempio dall'NBA. L'Inghilterra non ne ha bisogno perché i diritti li vende comunque. C'è De Laurentiis che propose un giorno di giocare l'intera prima giornata di campionato sparpagliata sul pianeta. Sì, forse... facciano pure così, già hanno gli stadi mezzi vuoti, già quando ci sono partite di cartello, per esempio a Roma, Mediaset e Sky si guardano bene dall'inquadrare le tribune per evitare la tristezza e anche la dimostrazione che il calcio è diventato un'altra cosa. Facciano pure così. Quando saranno vuoti gli stadi e daranno la colpa alla decrepitezza degli stadi medesimi e non alla propria scarsissima lungimiranza, poi non vengano però a raccontarci che non siamo stati abbastanza moderni, perché quando il calcio era antico portava la gente allo stadio, era una passione anche economicamente alla portata di tutti, si vedeva meno in televisione, peccato, da bambini avremmo voluto e come vederlo quanto si vede oggi, magari anche la PlayStation avrei voluto avere da piccolo, ma sono contento di non averla avuta, così magari ho letto qualche libro, guarda, le medie. Pierluigi, come la pensi tu su questo punto? Ma io la penso 60% come te, 40% come Crosetti. Cioè è ovvio che non è prendendosi 1 milione di euro che cambiano i destini del calcio italiano. È altrettanto vero però, secondo me, che oggi il calcio italiano ha un enorme problema di appeal nel mondo. dovuto essenzialmente al fatto, l'abbiamo detto tante volte, poi ce l'ha confermato Berinazzo e quindi diventa Cassazione, dovuto al fatto che quando il calcio si è globalizzato a livello mondiale, purtroppo noi non eravamo così vincenti, è successo qualche anno fa, non è successo 20 anni fa, fosse avvenuto negli anni 90, le squadre italiane improvvisamente si sarebbero trovate a essere quello che sono oggi Barcellona, Real Madrid o Manchester United o Chelsea, quindi noi da questo punto di vista fatichiamo. Il problema principale ovviamente sono gli stadi, il livello delle strutture che è assolutamente fatiscente, c'è un problema legato alle bizze dei dirigenti, sono stati ricordati anni fa campionati iniziati in ritardo, scioperi, fantomatici progetti di televisione della Lega che sono durati 4 minuti, quindi insomma noi come sistema ci siamo fatti abbastanza del male. In assoluto io non credo che la partita di stasera sia, certo sarebbe più bello giocarla qui, sarebbe più bello vederla a Firenze, ieri sera al Franchi c'è una bellissima atmosfera, sarebbe stato fantastico, però non la vedo come una cosa, un'onta così grave così drammatica. L'esempio della Juventus, ma anche per esempio dell'Udinese, dimostra che poi se tu gli stadi li costruisci, li fai bene, li rendi comodi, ci metti i parcheggi intorno, ci metti le aree commerciali, poi la gente allo stadio ci va più volentieri, che è il problema dell'atmosfera nello stadio, che è un problema che da persona che lavora in televisione condivido pienamente, cioè, non c'è niente di più triste che andare a uno stadio, ma anche dal punto di vista del prodotto televisivo. L'abbiamo detto mille volte. 10-20.000 persone, non sono le 20.000 persone in più che fanno in meno allo stadio, e quindi forse più in televisione che fanno una svolta per Sky o per Media, se non ci cambia assolutamente niente, e lo spettacolo che viene raccontato è infinitamente meno attraente, quindi però in generale secondo me bisogna essere un po' aperti, non la trovo un'eresia, non la trovo una cosa così drammatica. Poi se la partita di oggi, che ho visto anche dei problemi logistici abbastanza clamorosi con l'aereo del Milan, alla fine diventa come è stato per esempio l'anno scorso, con quella drammatica copertura televisiva, più un disagio che un'opportunità, questo lo vedremo stasera. Ma in generale che si possa raccontare uno spettacolo di questo tipo all'estero secondo me non è sbagliato. Che tipo di spettacolo vedremo, Maurizio, secondo te? Una partita in maschera di fine stagione giocata in mezzo al deserto tra i cammelli, o vedremo una partita vera che conta qualcosa? Non dimenticando che per il Milan è l'unica opportunità stagionale per alzare qualcosa. No, vedremo certamente una partita vera, perché poi alla fine la forza del calcio è proprio questa, cioè al di là delle cialtronate, delle reticenze, forse anche delle visioni ristrette o anche delle illusioni, perché qualche volta questi discorsi si fanno anche in buonissima fede, sperando e pensando che davvero si amplieranno i mercati e non il nostro punto di vista, però poi il calcio ha una forza tale che in campo riesce ad esprimerla indipendentemente da tutto. Sarà una partita vera in cui la Juve dimostrerà di essere la solita cannibale, in cui il Milan cercherà di ripetere l'impresa di San Siro con la sua corsa, con la gioventù, la freschezza dei suoi ragazzini, e la Juve con l'esperienza dei suoi veterani, con le 600 in bianco e nero di Buffon, con la suggestione di un grande tridente. Quindi no, sarà sicuramente una grande partita, ma è proprio perché sarà una grande partita che la vorrei vedere all'Olimpico a San Siro e non tra i cammelli, è proprio per questo. Tanto non gioca Dybala, gioca Mandzukic, lo sai, no? Ma ero sicuro che dall'inizio non l'avrebbe messo, perché conosco Allegri, quella cosa lì lui non la vede Dybala, e devo dire che Dybala troppo indietro serve anche meno. Dybala entrerà, gioca in corso, come si dice in questo momento. Allegri vuole i muscoli del capitano, perché mi viene in mente De Gregori. I muscoli di Mandzukic, che però è una specie di capitano dei cuori bianconeri ed è in questo momento il grande idolo dei tifosi per come si sbatte per recuperare i palloni sulla bandierina propria, non quella altrui, e poi provando anche a segnare. Quindi vuole i muscoli di questo soggetto grandioso e generosissimo insieme a tutto quello che Higuain è. Certo. Con Dybala, che è il giocatore più forte della Juventus, secondo me, come classe, come talento puro, che entrerà, che avrà i suoi spazi, ma che con quegli altri due a gioco lungo bisognerà in qualche maniera collocare, perché insieme quei tre, forse in casa col Pescara, senza offesa per Pescara. Forse nemmeno, secondo me. No, in casa col Pescara, sempre con le squadre di medio-bassa classifica. Stiamo estremizzando, ma non è, secondo me, una soluzione plausibile nelle partite che la Juventus vuole vincere, nelle partite che la Juventus dovrà vincere da qui alla, alla fine della sua stagione. Maurizio, io ti abbraccio, ti auguro buon Natale, ci sentiamo. Ciao ragazzi, e lo faccio a tutti voi, a chi ci ascolta e chi ama questo sport, indipendentemente da tutto, perché è di una bellezza, ragazzi, che levati. E a noi piace abbastanza imperfetto. Ci piace così da morire, da sì, morire. Sì, da morire. Grazie, Mao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Pierluigi, tu rimani? Certo. Ah, chi si muove? Ah, fermo. Okay. Fermo lì. Fermo lì, che c'è la borsa, fermo lì, arriviamo. Tutti convocati. Brexit, referendum, terremoto, premio Nobel sono alcune delle parole che hanno contrassegnato l'anno che sta finendo. Parole difficili che abbiamo scelto di spiegare e raccontare anche ai più piccoli. Sono Federico Taddia e insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani vi aspetto a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Domenica 25 dicembre alle 9 e da martedì 27 dicembre ogni giorno alle 13.30 su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Oh, Santa, I've been waiting on you. L'apertura, buona verso Insigne, possibilità per uno contro uno, Insigne da via Chiesa, prova col destro! 1-0 Napoli, Insigne con un capolavoro! Parte lui col mancino e c'è il gol, il pareggio viola con Bernardeschi, una traiettoria che beffa Reina, clamoroso al sesto della ripresa. Pressing di Mertens che ruba il pallone a Tomovic. Mertens fino in fondo. Mertens! Sempre lui! Occhio resta a Bernardeschi. Dalla distanza Bernardeschi! 2-2! 2-2! Che gol di Bernardeschi! Non finisce mai questa partita! Non finisce mai questa partita! Possibilità per la Fiorentina che prova a salire con il movimento di Bernardeschi che cerca il taglio dentro per Zárate, è un gol strepitoso, 3-2 viola, incredibile, la Fiorentina è avanti al minuto 82. I turned out all right. Gabbiadini contro Tatarugianu, minuto 94, questo è il momento. Parte Gabbiadini, va col mancino, 3-3, Gabbiadini aveva capito l'angolo Tatarugianu, Gabbiadini però con la conclusione chirurgica nell'angolo, palla in buca d'angolo e pareggio Napoli. Penso anch'io che sei un po' giù di voce, Pardo. Sì, sì, sì, ma ieri ho urlato tanto da una parte e dall'altra. Grande partita, grande in partita. Adesso hai bisogno un po' di ferie perché con la schedina non ci siamo. Eh no, sono venuto qui a certificare che come il ciclista sulla montagna si è piantato sui pedali il nostro Pierluigi. Oh, mamma mia, che ha realizzato ieri su un lotto di partite minore rispetto al solito perché ci sono i due rinvii, solo 3 punti. Pierluigi, che cosa è successo? Ma è un momento un po' di difficoltà, dovremmo guardarci dentro da uno spogliatoio con i ragazzi e cercare di trovare una strada. Ha indovinato l'Atalanta, ha indovinato la Roma e il Torino. Va dato atto al nostro Giovanni Capuano invece di essere stato molto più bravo perché ne ha indovinati 6. Esatto, e questa è la seconda sconfitta consecutiva nel duello a distanza. Palermo-Pescara avevo detto 1, vero? Palermo-Pescara avevi detto 1, avevi dato la vittoria del Napoli, avevi messo l'X di Cagliari-Sassuolo e avevi detto che la Samp avrebbe battuto l'Udinese 1-0, ma la Samp la sbagli sempre, dici. Cioè, la Samp sbaglio sempre, esatto. Non buone feste e tanto con le scommesse ci ritroviamo. Ma che si arriva così, tipo bollettino. Bollettino, non fare timido. Devo dare una mano in regia, anche perché c'è un ospite importante che ci sta aspettando. C'è un ospite importante che si sta aspettando. Poi c'è, sai che oggi dobbiamo salutare Alvise Falzone, Sì, stasera parte. Stasera parte. Catania, poi dopo vengono a prendere da Catania Caltanissetta, mi ha spiegato tutto. Lo salutiamo, lo abbracciamo, lo aspettiamo presto. Invece non aspettiamo Carlo Pallavicino che è in linea. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno. Volevo ringraziare Carlo che mi dà la chance di parlare con il grande Pardo, perché Pardo ormai non mi considera più. Parlarci devo avere un collegamento radiofonico con Radio 24. No, ma fammi capire, perché non ti considera più? Ma non è mai diventato importante. Quando era con me alle radio fiorentine era più a Pizzerfiglio, ora invece è da tiracchia un po', ma va bene. Pardon Giovanella. Esattamente. Grande Giovanella. Beh, però... Grande palla, come tu stai? Fai ganzo. Rispondimi quando mi chiamo, quando ti chiamo. Non risponde mai, i radioascoltatori di Radio 24 sanno che io ho problemi proprio di telefono che sto cercando di risolvere. Sì. Di che parliamo? Della viola? Parliamo, se volete, finalmente un giorno dove ci siamo molto divertiti, dove abbiamo visto soprattutto due ragazzi strepitosi, devo dire, perché Bernardeschi già un po' lo si conosceva, ma questo Chiesa è un ragazzo davvero che sta creando grande entusiasmo a Firenze. C'è stato un episodio bellissimo ieri quando è andato lui ragazzino a consolare Tomovic che aveva fatto quell'errore, e queste secondo me sono cose che danno la dimensione di questo ragazzo, che peraltro un ragazzo che sa le lingue straniere, è iscritto all'università, ha fatto con brillanti voti la scuola internazionale, è un ragazzo insomma che uno non si aspetta, ecco, perché al giorno d'oggi sono tutti un pochino troppo tatuati e troppo con gli orecchini. Lui è vecchia maniera, e questo lo dobbiamo anche al grande Enrico, che è suo padre. Senti, ai babbo. Ascoltate cosa ha detto Sarri a proposito di Bernardeschi, dipinto come Giotto, come Raffaello. Bernardeschi stasera ha fatto una partita straordinaria e l'ha fatta in qualsiasi punto del campo, ha toccato la palla, quindi è chiaro che noi a centrocampo abbiamo sbagliato qualcosa e i loro due trequartisti ne hanno approfittato, però lui ha fatto una partita straordinaria e penso che sia un giocatore straordinario. Ho sentito, c'è stata polemica quando Paolo ha detto che probabilmente sarebbe finito in una grandissima squadra, ma questi talenti poi è difficile tenerli per tutti, non è che sia difficile tenerli per la Fiorentina. Questo è un talentuoso e oltre alla tecnica ha una qualità che hanno tutti i grandi giocatori, è un giocatore di una coordinazione eccezionale, e questo è un denominatore comune di tutti i grandi giocatori. Questa è materia di Pallavicino però, Di Bernardeschi e del mercato? Purtroppo sfonda una porta aperta. È chiaro che l'uscita di Sousa fu un po' infelice, perché insomma a stagione appena iniziata, che tu dica questo giocatore andrà in squadre più ambiziose della nostra, non è certo una cosa che possa dare entusiasmo già a una piazza vagamente depressa come quella viola. Però è la realtà, ecco, ha detto le cose vere. È parte della guerra fredda che esiste tra la proprietà e mister Paolo Sousa, questo lo sappiamo. Esatto. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, no? Sì. No, è un messaggio, peraltro, sulle ambizioni, su quello che proprio un anno fa, a gennaio, su Firenze calò, cioè quell'entusiasmo, quei sogni, tutto quel qualcosa che si era materializzato nei primi mesi di Sousa a Firenze. E quel gennaio fu veramente una grande sventura per tutti, proprio perché Firenze si era illusa di poter fare quel saltino definitivo che aspetta di fare da quando io avevo 6 anni, quando ero bambino, voglio dire. Aspettiamo con gioia il giorno in cui possa accadere. Quello era un giorno, quello era un momento, e la Fiorentina lo ha buttato al vento. Sì. Ma tu che idea ti sei fatto del comportamento di Paolo Sousa, di queste dichiarazioni? Cioè, ci trovi degli elementi di... Sicuramente c'è una dialettica molto forte, molto aspra. Cioè, ci trovi una un pensiero comunque costruttivo, magari in certi momenti un po' rubido, che possa anche dar fastidio ai tifosi, che può dar fastidio alla società, ma unicamente a fin di bene per migliorare la Fiorentina, o ci trovi invece l'insofferenza di chi è, prima o poi se ne andrà, se ne vuole andare, o magari ha già qualche altra idea in testa? Io la seconda che hai detto, non so, parla vicino, sì, conosce meglio l'ambiente. Io, dunque, Paolo Sosa è stato con Giovanni Branchini e col sottoscritto per tanti anni da calciatore, e lo abbiamo anche accompagnato in una sua prima fase nella quale stava iniziando a fare l'allenatore. Io lo considero una persona, per certi versi, fuori dall'ordinario, proprio perché è una persona che ha un'altissima considerazione di se stesso, che lo porta in certi momenti a riuscire a dare anche di più, perché come lui riesce a vivere con intensità e con trasporto tutta la propria professione, io devo dire in 30 anni che ho fatto questo mestiere non mi è mai capitato di vedere una persona così assatanata. Dall'altro lato devo dire che probabilmente questo suo massimalismo, questo suo vivere la professione in questo modo, lo può portare in certi momenti anche a avere delle visioni un pochino, voglio dire, esagerate, un po' meno lucide. E secondo me lui, da tanti mesi, avendo perso qualunque tipo di sintonia con la proprietà, è una persona che non riesce più neanche ad avere una vera sintonia con certe sue azioni, e quindi io personalmente credevo che lui se ne sarebbe andato nel giugno scorso. Anch'io. Il Paolo Sosa, anch'io, che conobbi io, che rifiutò di prendere la GEA in procura, e fu in quel caso ne pagò le conseguenze amaramente ai tempi della Juve. Secondo me era un Paolo Sosa che da Firenze si sarebbe voluto andare via giugno scorso. Invece questo Paolo Sosa qui è stato forse mosso dall'intento di dire: gli allenatori devono essere un po' più aziendalisti, non devono creare troppe rotture. In realtà poi dopo il suo carattere è quello, e quindi vivere da separati in casa così non è proprio il caso, ecco, secondo me. Sì, questo è un quadro, secondo me, molto fedele della situazione di Firenze. Poi possiamo anche fare del fantacalcio, no, Pardo e Carletto, se siete d'accordo, e dire: ok, Paolo Sosa dopo Allegri alla Juventus e Sarri fiorentino a Firenze. Insomma, Paolo Sosa alla Juve credo che sia un'idea, però Allegri sta facendo benissimo, quindi insomma io oggi se la Juve non cambierei Allegri. Ma no, ma io neanche, sto facendo del fantacalcio. Se facciamo fantacalcio sicuramente sì, Sarri fiorentino a Firenze sicuramente è un'ipotesi affascinante, suggestiva dal punto di vista romantico, ma in questo momento Sarri ha una squadra che, non me ne voglia la Fiorentina, ha ambizioni e classifica migliore, quindi in questo momento sarebbe un piccolo passo indietro, al di là del fatto che poi Firenze è realmente un posto dove si percepisce una passione, una unicità e una veramente una religione del calcio unica. È un po' quello che diceva ieri sera, ad esempio, Toni nel prepartita su Premium, no? Cioè, comunque è una città che ti riesce a dare una tifoseria, che ti riesce a dare tantissimo, perché è una tifoseria competente, perché è una tifoseria appassionata, perché a Firenze c'è una squadra sola. Quindi da questo punto di vista, perché c'è comunque tutta la cultura di Coverciano, degli allenatori toscani, sono tutti allenatori, quindi insomma che possa dare grandissime emozioni, su questo non ci sono dubbi. Però è ovvio che da un punto di vista di dimensione, proprio di prospettiva, faceva parlare fino a prima, cioè comunque alla fine sono 40 anni che si aspetta che arrivi, certo, il momento del salto, certo, di qualità definitivo. Certo. Io ringrazio, sì. Dimmi, beh, dimmi no, Carlo. No, dicevo solo che Firenze, come dice giustamente l'amico Pardo, Giovanella, bisogna che si rassegni a prendere degli allenatori emergenti. Sarri, come dice lui, probabilmente in questo momento ha ambizioni diverse. Ecco, lo prenderemo a fine carriera quando vuole tornare a Figine, dove sta di casa. Grazie Carlo, ti ciao, abbraccio. Ciao a tutti, ciao, auguri. Ciao. Auguri. Ci fermiamo per il traffico, torniamo 800 24 00 24, numero verde, poi voglio parlare anche, rimanendo sulla partita di ieri, ma se volete allarghiamo i temi fino all'infinito, ovviamente temi sportivi e calcistici, vorrei tornare a parlare di questi due allenatori che mi sono sembrati un po' sull'orlo di una crisi di nervi. Tutti convocati. Convocati. Sì, la Fiorentina c'è sempre, cioè, basta crederci, basta essere noi stessi. Noi oggi abbiamo stato molto più vicini a noi stessi e ci abbiamo sempre creduto. Quello che mi fa un po' di rabbia è che io sto cercando di creare una mentalità un po' diversa da quello che abbiamo attualmente, e vedo che stiamo facendo un po' di fatica a assumere atteggiamenti diversi in certi momenti della partita. Tutti noi dobbiamo analizzare per migliorarci, cerchiamo di aiutare sempre anche gli arbitri a migliorarci e comunque, cioè, non è che dobbiamo pensare a quello, cioè, il rimarico è perché abbiamo fatto una buona rimonta, ci abbiamo creduto con buon calcio, con buona velocità. Non la guardo la classifica, perché la classifica con tutto quello che c'è successo quest'anno è anche troppo buona. Non mi va giù il fatto che questa squadra ha espresso un calcio e meriterebbe molti più punti in classifica e che non ce l'ha per colpe proprie. Allora, due allenatori che mi sono sembrati un po' depressi, che mi sono sembrati un po' sull'orlo di una crisi di nervi, Paolo Sosa col mal di denti, Sarri che dice dovevamo avere una classifica migliore, ma è tutta colpa nostra, quasi una pubblica scusa in ginocchio sui ceci. Massimo Golini, che ha seguito la partita da bordo campo per Sky, ciao Massimo. Ciao a tutti, buongiorno. Come va? Come è andata la cena? Bene, abbiamo finito un po' tardi, francamente, però anche noi. Poi alimentazione leggera a Firenze, sempre molto. No, ho bandito la carne per ieri sera, se no avrei visto i mostri la notte. Quindi. E che hai mangiato? Risotto. Vabbè. Risotto, prosciutto crudo, risotto, vino rosso. Bene. Ma seguito una dieta equilibrata. Sì, di uno che deve scendere in campo a Doha dopo due ore, non giusto. Golini, grande rispetto. Massimo, come li hai visti dal bordo campo questi due allenatori? Beh, molto più coinvolto Sarri dal punto di vista emotivo, ma perché comunque di suo ha una mimica, una gestualità rispetto a Sosa, diciamo, più pronunciata, no? nel vivere la partita. Sosa francamente mi è sembrato invece soddisfatto, ma di denti a parte, nel senso che ieri è stata una buona Fiorentina con delle intuizioni anche importanti dal punto di vista tattico, con un giocatore che ha dimostrato di poter valere la Serie A, questa Serie A, cioè Federico Chiesa. Bernardeschi, insomma, ne abbiamo parlato in maniera, insomma, se ne parla in maniera diffusa già da tempo, però ecco, raramente ho visto Gulam così in difficoltà come ieri contro Chiesa, e credo che sia una novità importante per la Fiorentina, no? pensando al 2017, al campionato ancora tutto da giocare. Sì, hai avuto la stessa impressione dalla cabina di commento, Pierluigi? Sì, mentre sento rumori. Sì, io credo che insomma la depressione o l'orlo della crisi di nervi al quale facevi riferimento è dovuto al risultato, perché il risultato non va bene a nessuno dei due. La Fiorentina aveva pensato di poterla vincere, comunque l'ha pareggiata per un'ingenuità all'ultimo minuto, il Napoli l'ha buttata via due volte ed è certamente un risultato negativo per quelle che erano le aspettative della vigilia. Quindi questo secondo me spiega la depressione o comunque l'insoddisfazione dei due allenatori. In generale mi colpisce molto la frase di Sarri, che secondo me è molto vera, cioè il Napoli poteva avere una situazione classifica molto migliore e non ce l'ha però per delle sue colpe, al di là della sfiga di Milik, che tra l'altro si è infortunato in nazionale e sicuramente ha inciso, però anche ieri insomma il parametro è sempre la Juve, no? Perché alla fine se Napoli e Roma e Inter e tutte le altre hanno l'ambizione di arrivare a vincere, il parametro devi sempre farlo con la Juve. Allora tu pensa alla Juve che va avanti due volte a Firenze, la partita la vince, la porta a casa, cioè, questa è la verità. Sì, poi il Napoli è certamente la squadra più spettacolare del campionato, con la Roma in certi momenti, ma il Napoli forse anche di più, e ha degli sprazzi di gioco eccelsi, anche ieri si sono visti, insomma il fraseggio del Napoli è un fraseggio bellissimo, appena dai un po' di campo a questa squadra, no, ti può far male in qualsiasi momento, però mi piace da morire il modo in cui sono messi in campo. Per la millesima volta a sottolineare la differenza tra la categoria della bellezza e la categoria dell'efficacia, cioè, si può essere molto belli ma avere ancora qualche piccolo difetto, Tra l'altro, ragazzi, io credo che un minimo di dibattito su Reina vada aperto, perché Reina è una persona simpaticissima, è una leggenda del calcio, è anche uno ancora capace di grandissimi interventi, per carità, però gli errori quest'anno sono tanti, non so che ne pensa Massimo. Che dibattiti verranno aperti durante questo periodo e a gennaio sul Napoli? Mi riferisco ovviamente Reina, al mercato. Il dibattito su Reina è aperto da tempo, però in questo momento secondo me è l'unico in grado di portare quella che un signore che ha vinto qualcosa chiamava mentalità. Certo. E quindi io me lo tengo stretto, insomma, Pepe Reina, cioè non vedo grandi alternative, perché vi assicuro la pressione che esercita questa piazza è notevole. È vero che non sta disputando una grande stagione, dal campo l'impressione mia personalissima, ero sulla diagonale proprio del tiro di Bernardeschi, è che cioè, come è partito il tiro, ho detto questo è gol. Quindi sì, forse poteva scendere un pochino più rapidamente, certamente avrebbe forse potuto fare qualcosa di più, ma cioè, no, però penso a Keita, a Rossettini, cioè voglio dire, non è il primo. Sì, no, non è il primo, però questo, cioè, secondo me non è un errore, però è vero che non sta vivendo la sua stagione migliore, però il Napoli ha anche provato sulla sua pelle cosa vuol dire non avere un leader difensivo come Pepe Reina di recente, infatti se l'è ripreso. Poi le annate sfigate capitano a tutti, anche ai grandissimi, gli anni passano e possiamo andare avanti con i luoghi comuni fino a quando ne abbiamo voglia. Io sono d'accordo con Ugolini. Io un leader difensivo come Pepe Reina, ma al momento non lo metto in discussione. Magari metto in discussione sul mercato qualcos'altro, così come il Napoli farà. Massimo, ti ringrazio, ti abbraccio, buon Natale. Ciao a tutti. Ciao. Saluto anche te, amico mio. Lo so, le cose belle finiscono. Non farla tragica. No, ma io parlavo per me, cioè il fatto di poter essere collegato con te e con voi. Va bene. Dai, saluta al Vise Falzone, saluta al Vise Falzone. Dai, mandagli un saluto. Vise Falzone, ecco, coi fazzolettini stai sempre attento, quando prendi, quando mangi delle cose per strada, stai allo street food sempre col fazzolettino per una questione strettamente igienica. Dai, al Vise, ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. Agli amici di Caltanissetta, parlo malissimo, però insomma. Ci sentiamo presto. Un po' del sound falzoniano c'era. Baci, ciao amico mio, ciao. Noi ci fermiamo per il giornale radio, subito dopo torniamo e continuiamo su tutti questi discorsi, calcio all'estero, temi del campionato, Milan-Juventus in scena tra poche ore nel deserto, aspettateci. Tutti convocati. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Convocati. Giorgio De Luca, dove sono i miei amici convocati? Perché non me li chiami? 800 24 00 24, io voglio di parlare con loro. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Colpa di De Luca, non era lui che non chiamava. Allora suggeriamo a De Luca e al signor Galliani spostare le partite di cartello come fanno in Inghilterra alle 12 o alle 15 invece di giocarle alle 20:30, anzi alle 21, in modo che le possano vedere anche in Cina, in sud-est asiatico. Sì, ma lei cosa allora ne pensa, diciamo, dell'idea del signor Galliani, non del signor De Luca, di esportare non l'intero campionato italiano ovviamente, ma di esportare un po' di calcio italiano in giro per il mondo? La trovo una sciocchezza. Una sciocchezza. Anche la partita di stasera. Sì. Sarebbe stato più bello vederla giocata a Roma, che so, un campo neutro. Sì, sì. Poi, ma secondo me, se vogliamo sfondare a livello diciamo, televisivo, dobbiamo spostare gli orari, le partite di cartello, tutto lì, come fanno in Inghilterra. Sì, d'accordo, però in Inghilterra, sa, Gianluca, però in Inghilterra è un prodotto facile da vendere, si vende da solo all'estero per molti motivi, non hanno di questi problemi. Io penso però, come ha detto Galiani, ad altri sport che insomma aprono le porte al mondo, anzi vanno ad aprire delle porte in giro per il mondo. È un'idea che è venuta tempo fa a De Laurentiis, no? Giochiamo la prima giornata di campionato sparpagliata, quella sembrava una follia totale. Pensandoci bene, secondo me è una materia invece su cui riflettere, ma molto serenamente, in maniera molto laica. Portare, esportare il calcio italiano, un'eccellenza italiana in altri paesi quando serve, potrebbe non essere una cattiva idea, potrebbe essere, anzi, sa cosa le dico, sapete cosa dico a tutti voi ascoltatori? Può essere meglio fare così piuttosto che non andare a fare la preparazione appunto in giro per il mondo, con il rischio di rompere i giocatori, di stressarli, di rendergli la vita difficile. Andiamo a giocare delle partite da un'altra parte quando è il momento. Questo è il mio pensiero, eh. Christian, buongiorno. Ciao. Senti, beh, io sono favorevolissimo all'esportazione del nostro calcio, anche perché non abbiamo i stadi di proprietà, quindi alle società li conviene soltanto. Poi secondo me Galiani ha fatto anche un discorso da nuovo presidente della Lega, secondo me, anche perché non possiamo più sbagliare. Sì, questo l'ho inteso anch'io, l'ho capito anch'io, non abbiamo l'anello al naso. Sì, anche perché non possiamo più sbagliare nei prossimi diritti delle TV, dobbiamo prendere assolutamente un sacco di soldi. E l'ultima cosa volevo dire, che Gentile bisognava cederlo a inizio stagione, perché era solo una questione di tempo. Su questo sono d'accordo, si è perso troppo tempo, quella storia era finita il giorno in cui è stato alzato lo scudetto. D'altra parte abbiamo chiari e famosi esempi di storie che finiscono sul campo e che poi vengono prolungate per anni con effetti disastrosi, e lei sa a che cosa mi riferisco: alla notte in cui l'Inter alzò la Champions League, in cui Mourinho andò via con la macchina del Real, in cui Milito disse ma non so se rimango, vennero inchiostrati contratti molto pesanti che furono che sono stati e sono tuttora la pietra al collo dell'Inter per queste stagioni. Mirko da Prato, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Sì, io in pratica da tifoso fiorentino mi volevo riallacciare un attimino alla partita di ieri sera Fiorentina-Napoli, no? E al di là del bello spettacolo visto in TV, io ho visto che molti tifosi fiorentini sono un po' arrabbiati con Pierluigi Pardo. E perché mai? Ecco. Che gli ha fatto Pierluigi Pardo? L'ha fatta, al di là di tutta la stima che ho per lui, eccetera, però vedendo la partita, anche seguendo un pochino i commenti del dopo partita, sì, ho visto tranquillamente che a Firenze si sono arrabbiati perché non è stato riconosciuto in modo netto il fuorigioco prima del bellissimo gol, sì, di Insigne. Sì, quindi l'abbiamo visto, ma tanto non si preoccupi, tra un po' arriva la VAR e mette a posto un sacco di cose. Sterilizziamo il calcio, lo impacchettiamo, lo mettiamo sotto vuoto e lo spediamo in giro per il mondo. Questo è il prossimo futuro, caro Mirko. Io la ringrazio perché mi alzo in piedi di fronte al professor Franco Arturi. Buongiorno. E a mia volta faccio un saltino per ringraziare. Senti. Buongiorno a tutti. Senti, direttore, voglio parlare con te di alcune cose. La prima è questa. Guarda, mi consentimi, perché non so se me lo chiederai, mi scappa di dirtelo. La storia di Milito e dei miliziani di Mourinho, mm-hmm, dopo la Champions vinta è diversa da Gentile, perché erano diverse le età, gli sviluppi di carriera. Gentile è un giocatore che ancora deve esplodere, se mai lo farà, mi auguro per lui. La storia non ce la possono raccontare tutta, e quindi stanno la società e lo sa Gentile perché è finita così. Quello che noi invece possiamo dire è che Gentile è stato vittima di una involuzione tecnica impressionante, che in molte aree del suo gioco non solo non è andato avanti ma è andato indietro. Questo purtroppo è sotto gli occhi di noi spettatori. Beh, la parabola del suo tiro è una cosa invisibile per un giocatore di questa qualità, eccetera, ed è uno dei motivi per cui questo non è ancora un giocatore da NBA, ma alla grande. No, chiedo scusa per la... No, ma hai fatto benissimo, perché è uno dei temi di questa fine anno, perché non capita tutti i giorni di vedere uno dei più fulgidi talenti italiani fare le valigie ed essere prestato al Panathinaikos con quale futuro bene non si sa. Ma io comincerei ad andare a cercare qualche colpa nel manico, poi, ma no, anche questa è la mia idea. Il talento è vero, ma i talenti devono crescere, ogni anno devono aggiungere qualche cosa al proprio bagaglio, altrimenti si fermano ad un livello che non è l'ultima fermata, l'ultimo stop, e Gentile nel corso dell'ultimo anno si è fermato, ma in modo clamoroso. Posso parlarti molto chiaramente? Posso dirti una cosa molto chiara? Vorrei vedere Gentile 2 anni con Jasmine Repeša giocare nel Fenerbahce, nel Galatasaray, nel Panathinaikos, nell'Olympiakos, dove vuoi tu? Beh, ma guarda, qualunque squadra gioca, o ne mette 4 su 10 da 3 o non va da nessuna parte, perché il basket moderno è quello. E lui nell'ultima sua stagione di all'Olimpia non solo non ne metteva 4 su 10 ma ne metteva 1 al mese. È la realtà, la parabola del suo tiro è una cosa improponibile. Qualunque allenatore di una squadra giovanile vede un suo ragazzo tirare in quella maniera dice: beh, adesso siamo in palestra tutti chiusi per un mese finché comincia il canestro per il suo tiro da 3 è largo un quarto di quello degli altri, e infatti la palla non entra mai. Certamente, per una ragione, diciamo, fisica, è una ragione tecnica fin troppo intuitiva per chi come te conosce bene la pallacanestro. È una ragione tecnica, ma io ho imparato anche che questi blocchi, possiamo chiamarlo blocco mentale, psicologico, può nascere dal cervello, può nascere da altre parti, non solo dalle gambe, dalla meccanica di tiro. Non c'è dubbio. Senti, Franco, volevo chiederti di questo argomento innescato da Galiani sul calcio all'estero, che fa molto discutere. Esportiamo, facciamo vedere in giro il nostro campionato. Galiani ha fatto l'esempio dell'NBA. Io sono abbastanza conservatore, però ci ho riflettuto su quelle parole che non sono inedite, le avevamo sentite pronunciare anche da De Laurentiis e ci eravamo fatti delle grasse risate. Potrebbe però essere un'idea praticabile, potrebbe non essere un'idea così bizzarra? Ma non mi sembra affatto un'idea bizzarra, mi sembra un'idea di marketing moderna, sicuramente sarà fatta e sarà fatta bene. Il problema è che il calcio italiano non è un'eccellenza e bisogna partire da altrove, bisogna ripulire l'immagine del calcio italiano, come ha fatto la Premier League non adesso ma 10, 15, 20 anni fa, e a quel punto non si tratterà soltanto di esportare una giornata di campionato, che è comunque una buona idea da perseguire, ma si potrà esportare fior di diritti televisivi in tutto il mondo, in stadi che siano un momento di festa e di pubblico e non il trionfo del devi morire o delle fazioni, degli ultra, eccetera, eccetera. Quindi il marketing va molto bene, peccato che non ci si sia pensato un po' prima, perché siamo arrivati terzi e quindi ultimi, perché sono 3 le leghe che contano nel mondo del calcio, eccetera, ma voglio dire, nessuno vuole mettere mano, nemmeno parlare dell'area invece di grande arretratezza culturale del calcio italiano, che è il clima all'interno degli stadi e il clima del suo tifo. Ecco, è da lì che bisogna partire per fare una rivoluzione culturale, che non è soltanto una cosa morale, è una cosa di business, perché la Premier è quell'immagine che ha venduto soprattutto. Sì, perché la Premier dal punto di vista tecnico 20 anni fa era davvero una povera cosa. I migliori giocatori inglesi venivano comprati dai presidenti italiani in qualunque momento. Certo. Che cosa è cambiato? Non è che all'improvviso la Premier è diventata quella che noi vediamo oggi. Gli stadi e le tribune sono diventate un'altra cosa, ed è quella immagine che passa davanti agli occhi, e poi la questione morale diventa business, diventa richiesta. Non si possono fare salti, no? Come nella natura, che non fa salti, nemmeno nell'esportazione di un prodotto si possono fare. Bene il marketing, male non parlare del vero reale problema del calcio italiano. Certo, però è un problema a lungo termine, qui stiamo parlando di decretazione d'urgenza, quindi è chiaro che il problema è quello che dici tu, perché l'unica società italiana strutturata in maniera contemporanea è quella che tra poco si contende al Milan la Supercoppa italiana. È l'unica, parliamoci chiaro, non sono juventino, però è l'unica società italiana strutturata in maniera contemporanea, non ti dico proiettata verso il futuro. Volevo sottoporti un altro argomento. Questa fine anno sta regalando, grazie al cielo, e dopo un sacco di strilli, di lacrime, di piangerci addosso, sta regalando a Ventura una covata di talenti italiani che, stranieri o no, stanno emergendo. Mi spieghi questo fatto? Beh, i luoghi comuni, lo sfascismo, il disfattismo di non ci sono più talenti. Io ricordo, con una punta polemica, benevola, di S. Sabatini, in un'intervista non recentissima, ma di pochi mesi fa, diceva che mandava i suoi osservatori in giro per l'Italia per trovare i giocatori, e il loro livello era imbarazzante. Nell'arco di pochi mesi, fra l'altro, ieri l'under 18 del basket, altra vittima del luogo comune, ha vinto la medaglia di bronzo nei suoi campionati europei. Il calcio, come giustamente sottolinei, è in piena esplosione di talenti, ma 1.100.000 tesserati di calcio in campo maschile possono non produrre in Italia una decina di medi campioni all'anno e un paio di Insigne, di Immobile, di Belotti all'anno? È impossibile, è matematicamente impossibile. Certo, se li fai crescere individui e poi preferisci prendere un senegalese, un francese, un lituano, un ceco, per ragioni di mercato, di transazioni, di convenienza, eccetera, e poi dopo si spiega tutto. Evviva i talenti italiani, e sono contento per Ventura, che avrà in mano qualche cosa con cui divertirsi e far divertire. E divertirci. Grazie, direttore. Grazie. A voi e a tutti. Grazie. Un abbraccio. Ciao. Allora, adesso la top 3 delle dichiarazioni più interessanti della giornata di ieri, come quella di Juric che se l'è presa con i raccattapalle. Comportamento vergognoso da parte dei raccattapalle, cioè non si può fare neanche interregionale, nel senso, palloni che spariscono, che la mette nella rete, non si fa così. Secondo me è normale che un giocatore anche reagisce in situazioni quando vede che non si fanno cose giuste e per bene. Dunque, raccattapalle sotto accusa, ci mancava pure questa. Poi abbiamo Martens che dice: l'anno scorso non giocavo tanto, avete visto, quest'anno mi fanno giocare qualcosina, sono capace di fare. Senti, 8 in 3, come te la cavi in aritmetica? Perché inizi, insomma, a avere numeri importanti, non avevi mai segnato per 3 volte consecutive in Serie A, è un momento di grande fiducia, no, per te? Sì, no, non ho giocato neanche 3 partite consecutive. Non è vero, questo è lo scorso anno. No, sto scherzando, ma oggi era vicino una palla della linea, una palla, non lo so, devo vedere se c'era fuori gioco. Peccato, perché oggi il 3 punti era bella. Infine abbiamo la Volpe e l'Uva, cioè Spalletti che vorrebbe prendere la Juventus. Se non ci si può rapportare, poi è tutto fallito, perché sono forti, come ho già detto prima. A me piacerebbe andare lì vicino a vedere poi come si vive in quegli ambienti lì, con quei punti lì, però se non ce la facciamo, sono più bravi, non mi ha detto che noi si sia buttato via tutto e si sia fallito tutto. Questa è l'analisi di Spalletti sulla Volpe e l'uva. Difficile che la Roma quest'anno riesca ad arrivare vicina a quel grappolo d'uva. Tra poco ci colleghiamo, dovremmo riuscire a collegarci con Doha per sapere quali sono le ultime sulle formazioni. Vi ho detto prima, non giocherà Dybala, partirà dalla panchina, giocherà Mario Mandzukic, perché come stavamo dicendo i suoi muscoli servono ad Allegri. Che abbiamo in linea Patrizio da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Tanti auguri, buon Natale e buon anno. Reciproco. Io volevo chiedere due cose. Innanzitutto, per quanto magari ne avete già parlato, per quanto riguarda esportare il calcio all'estero, ma si è pensato anche alla schiera di tifosi che non potrebbero seguire la squadra? Mi ripete l'ultima frase che non ho sentito perché stavo parlando in cuffia con De Luca? Niente, volevo sapere, per quanto riguarda il calcio all'estero, ma si è pensato anche al disagio dei tifosi che non potrebbero seguire le squadre? No, ma attenzione, no, però Patrizio, chiariamo, non è che l'idea sia quella di prendere in toto il campionato italiano, questo è chiaro, e di sparpagliarlo in giro per il mondo. Si tratta, come d'altra parte capita, non so se lei segue il basket, non so se segue l'NBA, come capita, di giocare spot qualche partita di campionato. È chiaro che i calendari sono un casino, è chiaro che poi sarebbero partite da recuperare, è chiaro che ci sono dei disagi. Si tratterebbe di portare invece delle amichevoli estive e delle preparazioni estive che secondo me servono ai grandi club per incassare, non solo italiani, per incassare un sacco di soldi, però sarebbe più interessante provare a portare partite reali, vere, che contano tre punti di campionato su mercati sui quali il nostro calcio potrebbe essere appetibile. Semplicemente questo, ma è un'idea su cui riflettere, non ne sono convinto al 100% neanch'io, però non è un'idea che mi dispiace, anche perché ho visto che in altri sport è un qualcosa, in altri sport che godevano peraltro di eccellente salute, è stata una manovra che ha funzionato in maniera perfetta. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voglio dire soltanto questo a proposito di questo argomento. Diciamo che per lavoro ho viaggiato in un'ottantina di paesi e recentemente sono tornato dopo 40 giorni in Thailandia, sempre per lavoro, e devo dire che i pub la sera e durante il giorno sono pieni, perché in cartellone hanno partite di calcio, ovviamente di partite molto importanti. Quindi ho visto, che ne so, Barcellona, Real Madrid, si vede spesso squadre tedesche, squadre inglesi, squadre francesi, sì, Saint Germain, eccetera. Per l'Italia io volevo vedere Roma Lazio e sì, ho faticato un bel po' per andarla a vedere. Quindi io direi che forse partite molto importanti potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di trasmetterli in orari in cui possono essere viste, verificando quello che può essere un eventuale ritorno economico, pubblicitario, di conoscenza, ma non bisogna secondo me reinventare la ruota. Se gli altri lo fanno vuol dire che un utile c'è, basta studiare quello che fanno e perché, e si partirebbe già dal terzo gradino anziché dal gradino zero. Questo era il mio commento. Sì, ed è un commento totalmente condivisibile. La ringrazio, faccio appena in tempo a salutare, a fare gli auguri al mio amico Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carletto, auguri anche a te. Senti, tutti. Passi un Natale un po' più tranquillo, no? Dopo un brodino caldo, diciamo un brodino caldo. Beh, dai, un brodino caldo, dai. Un brodino caldo, bisogna vedere adesso. L'Inter sta risalendo la classifica, adesso è tornato sereno. Da quanto tempo non vivevi un momento così? Le ultime volte eri furibondo. Ero arrabbiato, devo dire, un brodino caldo soprattutto per il francesino con Dorbia, e adesso devi dimostrare se vale qualcosa. Lo aspettiamo tutti contro l'Udinese. Lo so che è il tuo chiodo fisso. No, voglio chiederti invece una cosa cestistica, una cosa tecnica, da grande tiratore. Prima con Franco Arturi abbiamo parlato a lungo del tiro di Gentile, che dice è diventato una cosa inaccettabile. Fossi il suo allenatore lo chiuderei in palestra 24 ore fino a quando non migliora quella meccanica di tiro. Io mi sono permesso di dire mi piacerebbe vedere Gentile allenato da Obradovic, Messina, da un grande coach per una stagione intera. Ma guarda, Gentile si è peggiorato assai il suo tiro, non è mai stato così solido il tiro a tre punti, è un giocatore completo molto forte, Per quanto riguarda la meccanica, non so cosa sia successo. Effettivamente è una meccanica molto brutta, molto teso. Deve un po' rivederlo, anche se non è facile rivedere il tiro quando ormai hai più di 20 anni. Però forse, come tu suggerivi, un allenatore così forte, così, come dire, cattivo, gli farebbe bene. Ciao Mario, grazie. A voi, grazie a te, ciao a tutti. Ciao, buon Natale. Buon Natale anche a tutti voi, ragazzi. Comunque ci sentiamo in questi giorni, non ci perdiamo di vista. Aspettiamo poi la ripresa dei giochi del campionato. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e soprattutto Alvise Falzone, augurandogli tutto il bene del mondo. Grazie, ciao.